attenzione Gian Maria. Ecco, buonasera. Buonasera anche a lì, caspita che andiamo bene. Cosa c'è, so, cosa c'è che ci stai lamentando? Dire a Gian Maria. Ti la fa passare Gian Maria. Sì, e cosa? A Baranuia, mi sei pigliendo. Ehi, tempo brutti, in tempo brutti siamo. Avvio, in tempi brutti, e per cui succedono anche queste cose, so. Però cerca di non pensarci, bisogna chiacchierare e basta. Tu c'era meglio di ghiaccio, ma... purtroppo, è così. Cosa hai combinato oggi? Nulla, nulla che nulla, ma ci ho fatto venire al Camposanto. Ma io c'è da qui, sono entrato dall'aerospia e poi me ne sono andato. No, oggi sono stato a casa, non sono uscito oggi, niente, è lì la mia vita, Ho sceso in magazzino, sono a farmi su la pelle e basta, brutto. Sempre a casa, in caldo, tranquillo, e così via. Stasera mi sono fatto una bella dormita, e per cui sto bene adesso. Sto guardando la TV e l'apparecchio era acceso. E cosa vuoi fare? Nulla, cosa vuoi fare? Nulla. Quindi, a voglia. Ecco, vediamo male. È stata una bella giornata. Mi faccio il diretto lì a Piazza Licini, da una mattina. Quello è normale. Sì, tanto per fare un giro, mi per fare un po' di movimento, so. Sempre se fa mattina bella. Ci salirò senz'altro e poi a comprare qualche cosa e dove fare almeno lunedì se si può salire si sale così che si fa una passeggiatina anche per le gambe, capito? E fai bene almeno così passeggi e fai movimento. Ehi aia, se no è uia per carità. E nemmeno la campagna si può scendere perché questo tempo lo già fai, e se no sarei chiuso qualche sera a campagna a fare qualcosa, ma non si può fare niente, per cui andiamo la settimana non si sente. Ecco, mi diamo domani sera, domani sera senz'altro mi farò la passeggiatina, tanto sarei a... per guardarmi la secchelli, se c'è ancora la campagna. In puttana non ci sarei puttana, No, si sarà spostata, lo so. Ah, non penso. Penso che rimane in Tibri, rimani. Un attimo, so che mi piglio la merenda. Vai, vai, già sono qua. Ecco qua. Ehi, Alessio, sono preso una pastiglia, devo prendere. E me l'ha data adesso. Anche quello bisogna fare, so, per carità. A forza di medicine si va avanti, finché si va. Ehi, certo. L'importante è che vi c'era già rude e si magna, da voi i baribacilli già si digeriscono. Quello è. Almeno ci aiuta a tirare avanti, perché bisogna fare anche quello, per carità. No, l'ho acceso tutto il giorno, non l'ho acceso per niente, non l'ho acceso poco fa quando mi sono svegliato. Poi si sta accendendo per un po'. Stavo spazzolando, visto che c'era gente, niente, era un bel gente, mi sono rientrato, ma c'era troppa gente, per cui hanno occupato il canile, nemmeno si è sentito più perché c'erano sempre loro, tira e là. Si sono dimenticato che c'eri tu pure. No, sono io che mi sono allontanato. Sono io che mi sono allontanato e sono rimasto in stand-by. Ma infatti è più strano che non abbiano chiamato a Torre, certo, perché c'eri già sul canale, però se sono dimenticato non è vero di chiamarti. Capito, anche se sono lontano, vabbè va. E così via, però io stavo ascoltando e basta. Gian Maria, sono rimasto all'ascolto e boh, poi oggi sono studiato, me la vedo nel telegiornale, come ti è finito, mi sono andato a mangiare. Vabbè, e così via. Ma io mi sono stessa per un po', quindi stavo spazzolando, mi sono fermato 5 minuti lì a sul 10, ma a ascoltare però, poi per quei 6 mi ne andavo su di 3. E così ho fatto, perché ho filtrato qui. Lui ha... Ebbene, ma chi se ne è sentito? No, Gianmarino, non ho sentito neanche a Marino. Provato a chiamare la signora, ma non mi ha rifuso, boh. Purtroppo. Marino, è soltanto... Non sai che non è che sia tanto perfetto, perfetto, però magari adesso insegnato anche della famiglia, lì, anche nel mattello, guarda. È una questione seria, so, sembra così, ma già pensati. Finché non lo prendi, finché non lo prendi stai bene, poi se lo prendi alla leggera, piano piano già passa. Quello è, ma... Speriamo tutto bene. A San Giovanni si dice che è già in calo, sta diminuendo questa cosa, speriamo bene, tutta la volta buona. Infatti, speriamo che passi al bioletto, che fanno che iniziano da metà gennaio a fare i vaccini, iniziano. Oh, tu saccati un po' il REM. Parecchio ce n'è parecchio. Quindi ce n'è parecchio. Basta, aspetta in quel REM. Un REM effetto, per immaginare, cazzo. Ma c'è il martello. Infatti. Io ce l'ho a 7, ce l'ho. Sì, sì, sì, sì, sì, vai. Qua un mese per il ministro. Posso arrivare qualche temporale? No, non ne ha messo, no. Fino a metà settimana siamo a posto come tempo. Speriamo bene, certo, il mattino. Siamo stati. Oh, va bene, è il periodo suo. Oh, come altri giorni non ci facciamo lamentare. Grazie a Dio, vabbè, ci sta facendo freddo freddo. Le corpure non sta facendo tanto vado qua. Vabbè, io parlo qua già è buono qua, qua a Sassari ce l'abbiamo sino a mercoledì o giovedì. Siamo in piazza per forza, anche lì va per un macello, un macello, certo. Oh, va bene, siamo mai contenti, lì sì, vuole il Brugrecco, si riferma il Brugaggio. Cacchio, non siamo mai contenti. Beh, qua è caduto, che succede tutto. Infatti, è proprio così, di sì, diciamo Brugrecco, di inverno diciamo Brugaggio. Quindi, o sei contento di sì, o sei contento di inverno. Possiamo controllare il salto orario qua. Cazzo. 1 e 2 ne ho, 1 e 2. 1 e 3, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 2. Certo. E non è che renda bene bene questa antenna, comunque. Però già c'è la differenza, dai. Da quella piccola a quella cosa più grande già c'è la differenza, dai. A meno qua ricevi qualcosa, mentre con la somma non ricevi niente, zitto, rimane zitto. Niente, vabbè, no, io mi invece di attaccare dall'affare, no, metto qua e lo controllo qua. Dove prendi, già? Ed è preciso. È preciso, va benissimo. Va benissimo. Però quando piove ce n'è di meno, come mai? Beh, forse c'è poca massa allora. Ah boh, ma qua non l'ho mai controllato quando piove. So solo che aumenta il QRM, aumenta. Il QRM è perfetto, problema purtroppo adesso, con tutte queste cose che ci sono, cazzo, gli alluvioni. Oh, guarda, il problema è sempre stato. Però adesso mi sembra che di più, perché magari prima riuscite a fare dei collegamenti bestiali, cazzo, mentre che adesso i collegamenti sono un po' più di meno, ecco. Tutti questi rumori che ci sono, questi telefonini e robe varie, non si sente. Ah, guarda, io stavo stamattina stavo ascoltando sui 40 metri. Cata, venirani un bel fosse, venirani. E il coso, lo... andavano e tornavano, andavano e tornavano. Quindi la propagazione sembrava forte e poi si rallentava. Io aspetto molto, ogni istante, in 7.255 in corso. E lì ci sono sempre. E poi ci sono quelli che fanno anche il conto, non mattano mai via, lì c'è pieno. No, io ero su 7.199, 188, nelle parti più de che era più battuto. Un attimo, il telefono. E sono qua. Otto. Dimmi, Jean-Marie. Dai, ci sentiamo dopo, ya. Se devo fare cosa. Ok, ya, sono qua. Chi è? Attenzione Marino! Attenzione Marino!